Per le aziende professionisti il cloud significa potenza, risparmio e scalabilità. È la sicurezza di un data center sempre con te. Sviluppa i tuoi progetti con le migliori soluzioni cloud di Aruba.it. Effetto giorno di Alessio Maurizi. Emergenza Covid sale il pressing del CTS sul governo per nuove restrizioni, Ricciardi possibili stop mirati nelle regioni a rischio. Cresce il contagio anche in Germania, oltre 7.000 casi in 24 ore, allerta a Parigi e Londra. In Campania, dopo la chiusura delle scuole, protestano le mamme, critici anche i presidi, abbiamo lavorato bene, così si alza bandiera bianca. Duello TV a distanza tra Biden e Trump, il presidente messo in difficoltà dalla anchorman della NBC. Buongiorno da Alessio Maurizio e dalla redazione, ben ritrovati con il punto delle notizie di metà giornata. Abbiamo proposto al governo degli stop mirati nelle regioni dove l'indice RT è superiore a 1, così ha detto poco fa Walter Ricciardi, consulente del ministro della salute Speranza. Fino ad ora il governo ha escluso nuovi lockdown, ma continua a crescere il numero dei contagi. In Italia ieri un nuovo record con 8.800 nuovi casi, la maggior parte, lo ricordiamo, sono asintomatici, ma con questo ritmo di crescita, spiega l'Istituto Superiore di Sanità oggi nel suo monitoraggio periodico, ebbene entro un mese gli ospedali potrebbero essere nuovamente in difficoltà a gestire la situazione. Allora partiamo da qua. Con l'esplosione dei contagi in Italia, ieri oltre 8.800 nuovi casi e 83 decessi e la tenuta delle terapie intensive a rischio in 10 regioni, arriva da più parti il richiamo forte al governo a ricalibrare le misure anticontagio per evitare il peggio. Il capo delegazione del PD al governo, Dario Franceschini, ha chiesto una riunione urgente al premier Conte appena sarà rientrato da Bruxelles per intervenire senza indugio d'intesa con le regioni. E il comitato tecnico scientifico spinge per introdurre subito misure più stringenti anche in vista del weekend. Sul tavolo coprifuoco e didattica a distanza per le scuole superiori. E tra le ipotesi, spiega Walter Ricciardi, consigliere del ministro della salute per l'emergenza Covid, quella di chiusure mirate nelle zone dove l'indice di contagio è superiore a 1, che dovranno riguardare punti di aggregazione come circoli, palestre ed esercizi commerciali non essenziali, mentre lo smart working dovrebbe diventare la forma ordinaria di lavoro in tutto il paese. Rosanna Magnano, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E secondo l'Istituto Superiore di Sanità l'allerta per l'occupazione delle terapie intensive riguarda soprattutto 10 regioni: Abruzzo, Campania, Emilia-Romagna, Liguria, Lombardia, Puglia, Sardegna, Toscana, Umbria e Valle d'Aosta. In queste regioni c'è una probabilità alta di superare la soglia del 30%. Proprio in Campania ieri è arrivata la risposta della regione che ha deciso di fermare le scuole, una decisione però criticata da genitori e anche da alcuni istituti scolastici che rivendicano il buon lavoro fatto. La smorfia napoletana dice che la paura fa 90, ma il timore di contrarre il virus in Campania non riesce ad evitare le smorfie di genitori e insegnanti che dalla sera alla mattina si sono ritrovati con le attività in presenza bloccate fino al 30 ottobre delle scuole primarie e secondarie, tantomeno quelle degli imprenditori che devono fare i conti con ulteriori restrizioni. L'ordinanza del governatore De Luca ha destato molti malumori e critiche. Per alcune aziende sarebbe stato addirittura preferibile una chiusura per un tempo limitato ora piuttosto che, come è prevedibile, a ridosso del periodo natalizio. In ogni caso la chiusura delle scuole, dice la Confapi, rappresenta un danno per le famiglie e le imprese. Ieri sera, lo ricordiamo, il governatore ha emanato un'ordinanza che prevede tra l'altro anche il divieto di feste con persone non conviventi, lo stop alla vendita da asporto per i ristoratori a partire dalle 21, il divieto di gran parte delle attività in presenza delle università. Laura Vigiano, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Napoli. E facciamo anche il punto a livello globale. Come ogni giorno, l'Argentina ha registrato nelle ultime 24 ore un picco di contagi, oltre 17.000, che portano il totale a quasi un milione. Numeri che restano alti anche negli Stati Uniti e in India e anche in alcuni paesi europei. L'evoluzione in Europa è molto preoccupante, a dirlo l'OMS, che segnala la soglia di 1000 morti al giorno a causa del coronavirus. In Francia per la prima volta sono stati superati i 30.000 nuovi positivi in un solo giorno, 88 le persone morte, 1.750 in rianimazione. Da sabato 12.000 poliziotti saranno incaricati di verificare il rispetto del coprifuoco notturno in diverse città, fra cui Parigi. In difficoltà anche il Regno Unito con oltre 20.000 contagi, preoccupa anche l'Europa dell'Est con la Repubblica Ceca che ha il peggior record di infezioni in Europa in relazione ai suoi abitanti, oltre 9.000 casi per un paese da 10 milioni di abitanti. L'esercito è mobilitato per costruire un nuovo ospedale da campo con 500 posti letto. Anche a Cracovia, in Polonia, si lavora per creare nuovi ospedali. Assieme a Varsavia è uno dei centri più colpiti. Nuovo record di casi di coronavirus in Germania, dove nelle ultime 24 ore sono stati registrati oltre 7.000 contagi. È il secondo giorno consecutivo che si registrano numeri così alti e sale anche il bilancio delle vittime, 324 persone decedute nelle ultime 24 ore. Cristina Carpinelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Seconda giornata di riunioni oggi per il Consiglio europeo al lavoro sul negoziato dedicato del Recovery Fund, i fondi e i prestiti ai paesi più colpiti dalle conseguenze economiche della pandemia. Fondi e prestiti che, lo ricordiamo, si basano su obbligazioni europee. Intanto in Italia il governo pensa alla manovra economica. Accumula ritardi su ritardi il negoziato sul budget europeo tra Parlamento e Consiglio e la trattativa sul dossier del Next Generation EU. Un incontro cruciale, quello del Consiglio europeo di ieri e di oggi, per il vecchio continente, chiamato anche a dare risposte concrete su temi strategici e diventati ormai urgenti come la Brexit. Mentre l'andamento epidemiologico è molto preoccupante proprio in Europa, ieri al vertice a Bruxelles il presidente dell'Europarlamento Sassoli ha sollecitato i leader dei Paesi membri a sbloccare i negoziati, chiedendo 39 miliardi in più per finanziare i principali programmi del bilancio, ma subito è arrivato il no della cancelliera tedesca Angela Merkel, sostenuta dagli altri capi di Stato. Sassoli ha anche avvertito che i soldi concordati il 21 luglio potrebbero addirittura non bastare più per risollevare il continente dalla crisi economica. Ci vorranno almeno un paio d'anni perché l'economia italiana ritorni ai livelli pre-Covid, secondo il governatore della Banca d'Italia Ignazio Visco. A mezzanotte è scaduto anche il termine per la presentazione dei documenti programmatici di bilancio da parte di tutti gli stati dell'Eurozona. L'Italia dovrebbe essere l'ultima a spedire il testo fra sabato e domenica. Non sono stati sufficienti due vertici di maggioranza. Oggi ce ne sarà un terzo, nella speranza di appianare le divisioni nella maggioranza. Anna Marino, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E resta caldissimo dal punto di vista economico, in vista della legge di bilancio, il tema della fine del blocco dei licenziamenti. Il segretario generale della UIL Bombardieri accusa il governo di voler infiammare il paese perché, dice, centinaia di migliaia di persone, le più deboli, rischiano di rimanere per strada. Il governo sta pensando a una conferma della cassa integrazione Covid per altre 18 settimane, con divieto di licenziare per le imprese che la utilizzeranno. Sul tema è intervenuto il presidente di Confindustria Giovane, Riccardo Di Stefano, al microfono di Alessandro Arona, alla vigilia, tra l'altro, del convegno che si tiene oggi pomeriggio a Roma. Sentiamo. Il blocco dei licenziamenti in un primo momento è stato necessario perché lo imponeva l'emergenza. Oggi prorogarlo serve soltanto a nascondere i problemi e anzi a ritardare la riorganizzazione delle aziende. Per evitare che nessuno resti indietro, occorre accompagnare lo sblocco dei licenziamenti con delle politiche di welfare moderne che puntino non più al posto di lavoro, ma all'occupabilità e alla garanzia del reddito per chi il posto di lavoro temporaneamente lo perde o lo cambia. Le politiche attive del lavoro in questo paese mancano e non sono efficaci da moltissimi anni, però la pandemia ha reso ancor più evidente che dobbiamo riformare le politiche attive del lavoro e concentrarsi davvero sulle competenze che serviranno a ciascuno dei lavoratori per proiettarsi nel futuro e per sostenere la crescita delle imprese italiane. Duello televisivo a distanza ieri sera tra Trump e Biden. Il presidente è andato più volte in difficoltà, intervistato da Savannah Guthrie, la 48enne anchor woman della NBC. Sulla ABC invece l'intervista a Joe Biden, il candidato democratico che ha preso di mira la gestione della pandemia da parte della Casa Bianca. Ne parleremo ancora nella seconda parte in Effetto Mondo. Restiamo però all'estero. Il governo giapponese ha fatto sapere che potrebbe riversare in mare l'acqua contaminata utilizzata per raffreddare gli impianti danneggiati nella catastrofe nucleare di Fukushima, una eventualità però che continua a suscitare molte controversie. 1 milione di tonnellate di acqua contaminata proveniente dalla centrale nucleare di Fukushima potrebbero essere riversate nell'oceano. Il governo di Tokyo sarebbe pronto a questo passo, scrivono i media nipponici. Il governo giapponese sta discutendo della questione da più di 3 anni, ma ora la decisione è prossima poiché lo spazio per immagazzinare l'acqua contaminata si sta esaurendo. Vista l'urgenza della decisione, un comitato governativo ha spiegato che lo sversamento nell'acqua in mare è un'opzione realistica a breve. Secondo il piano, a partire dal 2022 nell'oceano dovrebbero finire circa 1,23 milioni di tonnellate di acque contaminate attualmente stoccate in circa 1000 cisterne. Si tratta di acque già trattate da cui sono state rimosse le principali sostanze radioattive, ma saranno ulteriormente diluite fino a 600 volte con acque non contaminate. Contro questa ipotesi si oppongono gli attivisti ambientalisti, ma anche i pescatori e gli agricoltori, che temono un rifiuto dei loro prodotti una volta che sarà avviato il piano di sversamento in mare. Valentina Furlanetto, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Con la cronaca torniamo in Italia. Si svolgeranno oggi i funerali di Iole Santelli, la presidente della Calabria. Saranno in forma privata a Cosenza. Centinaia di persone erano in fila già di primo mattino per un ultimo saluto a Iole Santelli, la presidente della Regione Calabria, scomparsa ieri. La camera ardente è stata allestita nella chiesa di San Nicola, nel centro di Cosenza, proprio alle spalle di quel municipio che per anni l'aveva anche vista impegnata come vice sindaco. Alle 16:30 si terranno i funerali in forma privata per il rispetto delle norme anti-Covid. Vi prenderanno parte, secondo quanto comunicato, anche il presidente del Consiglio Giuseppe Conte e il ministro dell'Interno Luciana Lamorgese. Le esequie saranno celebrate dall'arcivescovo di Cosenza Bisignano, Monsignor Francesco Nolè. Per domani è previsto un altro momento di ricordo nella sede della Regione Calabria, a Germaneto di Catanzaro, dove nel pomeriggio il presidente della Conferenza Episcopale Calabra e arcivescovo di Catanzaro Squillace, Monsignor Vincenzo Bertolone, benedirà la salma. Francesco Straticò, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Cosenza. In chiusura allo sport, il calcio torna nel fine settimana il campionato di Serie A. Tra le partite previste per domani, Napoli-Atalanta, Sampdoria-Lazio, Inter-Milan e Crotone-Juventus. Ne parleremo ancora più avanti nella seconda parte di Effetto Giorno. Alle 13:12 facciamo un piccolo break, torniamo tra poco. 349-238-6666 per i vostri messaggi. Potete scriverci per commentare le notizie di oggi. Noi dopo il break parleremo con il rappresentante dei presidi della Regione Campania dopo la decisione ieri sera di chiudere tutte le scuole. Effetto Giorno. Queste le notizie di oggi. Emergenza Covid, sale il pressing del CTS sul governo per nuove restrizioni. Ricciardi, possibili stop mirati nelle regioni a rischio. Cresce il contagio in Germania, oltre 7.000 casi in 24 ore. Intanto il Tribunale Amministrativo di Berlino annulla il regolamento per la chiusura dei bar alle 23 perché è sproporzionato. In Campania, dopo la chiusura delle scuole, protestano le mamme, critici anche i presidi. Abbiamo lavorato bene, così si alza bandiera bianca. Ne parliamo tra poco. Eccoci qua di nuovo in diretta con Effetto Giorno. Alla luce della crescita dei contagi, del nuovo DPCM e anche della decisione della Regione Campania di chiudere le scuole, proviamo a spiegarvi la situazione dei posti in terapia intensiva negli ospedali italiani e nelle regioni, l'unico vero parametro fondamentale da seguire. Allora, al 31 dicembre 2019, prima della pandemia, i posti letto in terapia intensiva erano 5.179. Con l'emergenza sanitaria ne sono stati programmati altri 3.500 in più. Poco più di 1.200 sono già stati realizzati. Il dato definitivo in Italia oggi è quindi 6.458 posti effettivi. Altri due numeri, 10,6 posti ogni 100.000 abitanti, è la media italiana adesso. L'obiettivo del governo è arrivare a 14 posti. Chi sta meglio e chi sta peggio nelle regioni italiane? La regione che sta messa peggio è la Campania, a 7,3 posti letto ogni 100.000 abitanti, la metà dell'obiettivo da raggiungere. Ci sono poi anche l'Umbria e le Marche tra le regioni messe peggio. Sempre scorrendo la lista verso dal basso verso l'alto, abbiamo il Piemonte, la Puglia, la Lombardia, l'Abruzzo, la Calabria e la Sardegna, le regioni sotto la media. Poi ci sono le regioni sopra la media, la Sicilia, la Toscana, il Molise, l'Emilia Romagna, il Lazio, la Basilicata, la Liguria. Tra le regioni invece che hanno già raggiunto l'obiettivo di sicurezza, il Friuli Venezia Giulia, che ha 14,4 posti ogni 100.000 abitanti, la Valle d'Aosta 15,1, il Veneto 16,8, la regione più virtuosa d'Italia. C'è però anche da tenere in considerazione il livello di saturazione attuale, che incrocia quelli che abbiamo appena sentito, i posti disponibili, con le richieste effettive di posti in terapia intensiva di queste settimane. Il tasso di saturazione peggiore lo troviamo in Umbria, 17,1% di posti in terapia intensiva già occupati. Poi c'è la Sardegna, la Campania e la Liguria. Altre 6 regioni, secondo l'Istituto Superiore di Sanità, sono a rischio: Abruzzo, Emilia Romagna, Lombardia, Puglia, Toscana e Valle d'Aosta. Infine c'è la tendenza da tenere in considerazione, la curva epidemiologica. Ci possono essere regioni che hanno un alto tasso di saturazione della terapia intensiva per un focolaio, per esempio, singolo, risolto il quale la situazione torna stabile. E invece le regioni che preoccupano di più, guardando la tendenza alla crescita dei contagi, sono la Liguria e la Lombardia. Si torna ancora una volta in Lombardia, perché più veloce in questa regione è la crescita del contagio. In definitiva, tornando alla Campania, che ieri ha chiuso le scuole, è sicuramente tra le regioni messe peggio, ma non è sicuramente la peggiore. È con noi Francesco De Rosa, presidente regionale dell'Associazione Nazionale Presidi in Campania. Buongiorno. Buongiorno, buongiorno a lei. Allora, che cosa è stato deciso ieri in Regione Campania, diciamo in deroga rispetto a quelle che erano le direttive del governo? Sì. È stato deciso di andare a didattica a distanza per tutte le scuole della Campania e per tutti gli ordini di scuole della Campania. Quindi al momento abbiamo circa 1.000 scuole che si sono ritrovate da un giorno all'altro a fare didattica a distanza con i propri alunni. Le chiedo cosa ne pensa personalmente, ma anche qual è un po' la posizione, visto che lei rappresenta, diciamo, l'associazione dei presidi della Campania. Certo. Qual è il vostro giudizio, allora, su questa cosa? Il mio pensiero è che se è stato preso questo provvedimento vuol dire che era necessario. Sto vedendo che ci sono molte prese di posizione sia in senso favorevole che in senso contrario da parte dei miei iscritti. Ecco, chiaramente questo ci porta a tenere un attimo di prudenza, perché il problema ha mille sfaccettature. Noi abbiamo notizie di scuole che sono veramente in situazioni molto pesanti, con addirittura il preside in isolamento, 20-30 professori in isolamento, 7-8-10 classi in isolamento. Poi abbiamo chiaramente delle scuole che non hanno nemmeno un caso, ne hanno uno solo, e quindi la situazione era gestibile molto semplicemente. D'altronde le scuole hanno attivato tutti i protocolli di sicurezza possibili e immaginabili. Il virus non è nella scuola, viene da fuori. Si dice anche questo, no? Che insomma, non sia, diciamo, un contagio, che è anche la tesi del ministro Azzolina e del governo e di Conte, intrascolastico. Cioè, proprio il monitoraggio che si sta facendo, la misurazione di temperature, eccetera, eccetera, consentirebbe di individuare i casi che verrebbero da fuori e che poi non si estendono agli altri alunni. È questa la situazione, secondo il vostro osservatorio? Sì, la situazione è questa. Noi è stato chiesto di fare di tutto di più, quindi monitoriamo la temperatura, ma facciamo mantenere le distanze, dove non è possibile sdoppiamo le classi, abbiamo attivato l'organico Covid, veramente non sappiamo più cos'altro fare. Però chiaramente la decisione, l'ultima decisione, è sempre quella del governatore in Campania. E se l'ha presa vuol dire che dei motivi c'erano. Chiaramente saranno anche legati alla situazione della mobilità, dei trasporti o ad altre situazioni esterne alla scuola. E chiaramente i risultati di questa decisione li vedremo solo fra 15 giorni. Allora, una parte della spiegazione di quello che diceva lei, cioè i buoni motivi che avrà avuto la regione per decidere la chiusura delle scuole, abbiamo provato a spiegarli poco fa e abbiamo detto, dati alla mano, che la Campania non è la regione peggiore quanto a saturazione dei posti in terapia intensiva, no, in tendenza, perché la Lombardia e la Liguria, secondo l'Istituto Superiore di Sanità, sono più a rischio. Al di là di questo, io le chiedo, si poteva forse adottare, sarebbe stato, diciamo, più, avrebbe avuto un consenso maggiore anche tra i suoi colleghi, fare quello che ha proposto Zaia qualche giorno fa, che è stato subito bollato come no, non torniamo indietro, però è un passo intermedio rispetto a chiudere tutte le scuole, cioè tenere, come mi sembra accennasse anche lei, gli alunni delle superiori in alternanza didattica a distanza e a scuola, quelli che possono stare a casa da soli senza impegnare i genitori. Certo, anche quella forse poteva essere la soluzione migliore, perché chiaramente il problema mobilità ce l'abbiamo sugli alunni delle superiori, mentre sugli alunni della primaria e del primo grado la mobilità è molto relativa, un po' perché vengono accompagnati a scuola e quindi non usano i mezzi pubblici, e un po' perché la scuola del primo ciclo è scuola di quartiere, quindi diciamo che nelle vicinanze delle abitazioni degli alunni che la frequentano, quindi là non si creava un problema di affollamento dei mezzi pubblici. Chiaro. Però se il governatore prende una decisione del genere, noi non possiamo che prenderne atto. Assolutamente. E sperare, certo, che abbia ragione. Io la ringrazio, Francesco De Rosa, presidente dell'Associazione Presidi Campani. In chiusura vi faccio sentire anche che cosa ha detto questa mattina il sindaco di Napoli De Magistris ai microfoni di 24 Mattino su questo argomento. Per evitare la congestione basta fare gli scaglionamenti degli orari. Quindi è là che si deve intervenire, scaglionamento degli orari, alternare didattica a distanza e in presenza, intervenire con chiusure e quarantene dove ci sono i focolai. Non è possiamo chiudere e come dire, consegnare generazioni intere a considerare ormai imprescindibile una catastrofe educazionale e pedagogica. Ce la pigliamo con la scuola, bene, chiudiamo la scuola e diamo per scontato, non aprirate, Luca ha chiuso fino al 30 ottobre, si arriverà a Natale. Ma che dubbio c'è? Cioè, con questi numeri, con l'incapacità di tenerli sotto controllo, siamo solo all'inizio di un'escalation che porterà al lockdown, più o meno, magari non quello di marzo-aprile, ma a quello stiamo arrivando. :13:25, adesso è venerdì, proviamo come spesso facciamo a lasciarci questo fine settimana con una buona notizia, e speriamo che sia una buona notizia, ve la raccontiamo. Allora, ha a che fare con, diciamo, l'ambito dell'economia circolare, sotto il grande ombrello del riuso. Si tratta di un'azienda che propone di riutilizzare i suoi stessi prodotti, perché si propone di ricomprarli in qualche modo dai suoi clienti usati, poi di rigenerarli e di rimetterli in circolo. La grande azienda è l'IKEA, è con noi è Fides Tosoni, manager di IKEA Italia. Buongiorno e benvenuto. Pronto, buongiorno. Benvenuta, scusi. Nessun problema. Allora, l'iniziativa con un nome così. Esatto, l'iniziativa ce la racconti lei. La lancerete in occasione del Black Friday, che diventerà in questo caso Green Friday, perché diciamo si tinge di verde, no? Perché l'obiettivo è proprio questo, cioè diminuire le emissioni, ma insomma rispettare ancora di più l'ambiente, perché c'è un minor consumo di risorse. Di che si tratta? Assolutamente, l'iniziativa è proprio volta a un'iniziativa globale. Come sappiamo, IKEA da molti anni si è sempre occupata di sostenibilità, e l'iniziativa parte proprio dall'idea di dare un uso alternativo al Black Friday in un'ottica più sostenibile. Come sostanzialmente sappiamo, la salvaguardia del nostro pianeta, il vivere una vita migliore sempre nel rispetto dei limiti del nostro pianeta dipendono dalle azioni che ciascuno di noi compie. Sì. E quindi è importante sostanzialmente, per avere un impatto positivo, anche avere un nuovo approccio al consumo, cominciare a pensare che a partire dalla nostra casa, i nostri mobili possono avere una seconda vita attraverso la loro riparazione, riutilizzo, riadattamento o anche il riciclo, e in questo modo creare veramente quel comportamento virtuoso e circolare che aiuta il pianeta e il nostro portafoglio. Sono molte città, devo dire, si stanno organizzando con delle oasi del riuso, no? A fianco alle stazioni ecologiche dove si vanno a buttare i vecchi oggetti, compresi i mobili, laddove è possibile si ristrutturano e magari si danno a chi ne ha bisogno. Nel vostro caso qual è il meccanismo che avete pensato? Un buono sconto che raddoppia se l'utente torna con il mobile usato, giusto? Sì, il meccanismo sostanzialmente è un meccanismo che sarà attivo nei nostri store a partire dal 27 novembre, in tutti i nostri store, quindi nei 21 store d'Italia a partire dal 27 novembre fino al 6 dicembre. In questo periodo le persone potranno portare i nostri prodotti nei nostri negozi per avere una valutazione, volendo potranno anche avere una prevalutazione presso il nostro sito, quindi prima dell'arrivo in negozio. Quindi c'è una libreria, un tavolo, credo che non ci siano limitazioni, un divano, qualunque cosa. Assolutamente, non ci sono limitazioni, andando sul nostro sito potranno sostanzialmente sapere qual è la valutazione che faremo in questo periodo, a seconda di quelle che sono le condizioni del prodotto, e in cambio riceveranno una carta reso, che sostanzialmente è un buono d'acquisto che potranno poi liberamente, ma in maniera sempre consapevole e sostenibile, utilizzare all'interno dei nostri negozi. Chiaramente per voi recuperare questi mobili è un'attività più semplice perché avete i pezzi di ricambio, quindi diciamo è un qualche cosa nel quale il consumatore ha la possibilità di, come dire, di avere un buono sconto e di poter fare un nuovo acquisto scontato. Voi avete la possibilità di rigenerare questi mobili che poi, se ho capito bene, verranno rimessi in vendita. Quindi diciamo anche la possibilità poi per chi vuol comprare l'usato a prezzo ancora più basso, immagino. Assolutamente, creando veramente un circolo virtuoso di economia circolare dove gli oggetti non vengono più consumati e buttati, ma vengono prolungati nella loro capacità di darci emozioni. Anche in Italia ci sarà il negozio con i mobili usati? Allora, ovviamente questo è un primo inizio all'interno dei nostri store, già è possibile acquistare comunque mobili usati, sono sperimentazioni che stiamo facendo e sulle quali speriamo di darvi presto sempre buone notizie. Va bene, grazie per ora a Fide Stosoni, manager di IKEA Italia. 13:30 esatte in punto, noi facciamo un piccolo break. E poi torniamo tra poco con, ve lo anticipo, un sondaggio di YouGov, un sondaggio internazionale che misura il grado, diciamo, di sostegno degli europei tutti nei confronti dei due candidati per la sfida americana, Biden e Trump. Tra poco, 349-238-6666. Se sei un'impresa o un libero professionista, hai bisogno della PEC per attivare il tuo domicilio digitale, dove riceverai tutte le comunicazioni della pubblica amministrazione. Scegli la PEC preferita dagli italiani. Attivala facilmente su aruba.it. Effetto giorno. Ecco le notizie di oggi. Emergenza Covid, sale il pressing del CTS sul governo per nuove restrizioni, esecutivo riunito forse già oggi. Cresce il contagio in Germania, oltre 7.000 casi in 24 ore. Il Tribunale Amministrativo di Berlino però annulla il regolamento per la chiusura di bar e ristoranti alle 23 perché sarebbe sproporzionato. In Campania, dopo la chiusura delle scuole, protestano le mamme, critici anche i presidi. Abbiamo lavorato bene, così si alza bandiera bianca. Duello TV a distanza tra Biden e Trump. Intanto, secondo un sondaggio internazionale di YouGov, gli europei tifano per Biden. I fan di Trump si concentrano in Italia. Ne parliamo tra poco. 13:35 minuti, eccoci qua di nuovo in diretta con Effetto Giorno, cari ascoltatori. Avete sentito i titoli principali delle notizie di oggi. C'è andato in onda il duello a distanza televisivo tra Donald Trump e Joe Biden, due candidati alle presidenziali americane. Ne parleremo tra poco approfonditamente anche di questo insieme a Giulia Crivelli, come ogni giorno naturalmente per Effetto Mondo. Prima però un sondaggio di YouGov, società internazionale di ricerca e analisi, che ha misurato il gradimento degli europei, dei cittadini europei, dei due candidati Trump e Biden. È con noi Daniela Massara di YouGov, ben ritrovata. Buongiorno, grazie. Allora, avete avuto un campione piuttosto ampio di rappresentanti dei cittadini europei, gli avete fatto diverse domande. Chi vorrebbero che vincesse questa sfida, vista da quest'altro lato dell'Oceano Atlantico? Chi si aspetta invece che possa vincere? Cioè, chi ha maggiori chance di vittoria? Cominciamo però da diciamo, il desiderio in qualche modo dei cittadini europei, che naturalmente non parteciperanno a questo voto, ma che assistono in qualche modo interessati, perché l'Europa e l'America sono due partner molto importanti. Per chi tifano gli europei, Daniela? Allora, abbiamo intervistato un campione di circa 9.000 persone in 7 paesi europei, inclusa l'Italia, e abbiamo chiesto innanzitutto quale sarebbe la loro preferenza, quindi chi vogliono che vinca le presidenziali statunitensi, e in generale la maggior parte delle persone vuole che sia Biden a vincere. Però tra i 7 paesi ci sono delle differenze. La Danimarca, ad esempio, è il paese più pro-Biden, con un 80% di persone a volere la sua vittoria, mentre soltanto il 6% è favorevole a Trump. Mentre l'Italia, su questi 7 paesi, si trova in fondo alla classifica in termini di preferenza per Biden. O in cima alla 20% classifica in termini di preferenza per Trump, se vogliamo vederla al contrario. Per Trump, esatto. Per converso, sì, perché il 20% vorrebbe un secondo mandato dell'attuale presidente, mentre il 58% vorrebbe che Biden vincesse. E anche se questo è un dato relativamente alto, è il più basso tra i 7 paesi che abbiamo intervistato. E poi abbiamo anche chiesto però chi si aspettano che vincano. Prima però una riflessione su questo, insomma, è abbastanza clamoroso il dato, perché più dell'80%, il dato medio su tutti i paesi europei pro Biden, di che percentuale parliamo? Allora, non abbiamo un dato medio, perché non avrebbe senso una considerazione del genere, quindi abbiamo un dato paese per paese. Paese. Noi sappiamo che gli estremi sono 80% Danimarca, 58% Italia, quindi okay. L'Italia tra questi. Comunque si trova in tutti, inferiore. Possiamo dire che in tutti i paesi europei c'è un'ampia maggioranza che va dal 58 all'80% addirittura della Danimarca a favore di Biden. Questa è una cosa che può in qualche modo anche non stupire, se si pensa alla forte connotazione pro-americana, no, di Trump. America First, ha fatto delle guerre commerciali a favore del suo paese, quindi diciamo questo riflesso tra i cittadini europei può non stupire per questo. Certo, dall'altra parte c'è, come dire, il profilo di un candidato sovranista che può comunque attrarre l'elettorato di quell'area anche in Europa, però questo è il dato. Invece, venendo a chi pensano che vincerà queste elezioni, cosa pensano gli europei, Daniela? Allora, diciamo che le preferenze non rispecchiano necessariamente le aspettative. In questo caso la situazione è meno netta. Soltanto in Danimarca, di nuovo, abbiamo il paese che è ancora più favorevole a Biden, in cui di nuovo l'80% pensa che sarà lui a vincere. Il resto dei paesi, invece, meno della metà delle persone pensa che vincerà. Ad esempio in Italia il 48%. Però comunque in tutti i paesi vediamo che, anche se la situazione non è netta come in Danimarca, la prevalenza, l'aspettativa va su Biden rispetto a Trump. Allora, c'è un ascoltatore che dice: capirai che sondaggio, i paesi socialisti preferiscono i socialisti, però qua anche paesi che non sono socialisti come l'Italia, o che sono magari governati da altre maggioranze politiche non di centrosinistra, in questo momento sono comunque negativi per Trump e più favorevoli per Biden. Questa può essere una notizia. Invece, per quanto riguarda l'ultima cosa che avete testato, diciamo il grado di correttezza del sistema politico americano, perché Trump ha cominciato già a parlare di una questione legata al voto elettorale, per esempio. Sappiamo che altre volte il voto è rimasto in sospeso negli stati in bilico per qualche giorno, c'è stata molta incertezza. Cosa ne pensano gli europei su questo voto? È vero, gli europei sono molto sensibili anche a questo tema, infatti sono molti ad avere incertezze sulla correttezza e l'imparzialità delle elezioni e del sistema americano. In nessuno dei 7 paesi la percentuale di persone che si aspettano che le elezioni saranno completamente libere e imparziali supera l'11%. Anche qui abbiamo delle differenze, perché il dato più basso di chi è convinto di questo si ha in Germania con un 2%, mentre in Italia di nuovo ci troviamo sull'estremo opposto, abbiamo l'11% di persone che pensa che saranno imparziali. Quindi gli italiani sono un po' più dell'idea che il processo democratico sarà solido, infatti fino al 37% crede che saranno poco o per niente libere ed imparziali, e questo è il dato più basso tra i 7 paesi, seppur comunque non bassissimo. C'è ancora qualcosa prima di chiudere? Sì, diciamo che abbiamo chiesto anche quale fosse la valutazione dell'operato di Trump e cosa si aspettano che Biden faccia in caso venga eletto. Diciamo che pochi pensano che Trump si sia distinto in modo positivo, e il numero di persone che lo considera un buon presidente è il più basso in assoluto in Danimarca, in cui abbiamo un 5%, e qui di nuovo l'Italia al 15%. Però il 61% in realtà pensa che sia stato pessimo. Mentre parlando di Biden, ancora qui c'è un po' di incertezza, le vedute sono molto moderate, non oltre il 23% si sbilancia dicendo che sarà sicuramente un gran presidente, molte più persone pensano che sarebbe nella media, abbiamo da un 32 a un 55%, mentre tanti dichiarano semplicemente di non sapere. Quindi se Trump non ha entusiasmato, Biden certo non accende neanche lì le speranze. Grazie Daniela, esatto. Massara di YouGov per essere stata con noi. E va bene, questo così era un punto di vista degli europei sulla corsa verso le elezioni, verso il 3 novembre. Ne parleremo ancora tra poco con i riflessi sui giornali del dibattito, cioè nel dibattito del faccia a faccia in diretto televisivo ieri sera sui canali americani. 13:43 invece, adesso ci attende un fine settimana di partite di calcio, Serie A, Carlo Genta. Ciao Alessio, innanzitutto ci attende un super sabato perché come normale è il weekend che precede la prima settimana di Coppa Europea, dunque tutte le grandi in campo, perché avremo il derby di Milano che è la partita totalmente di cartello, che però è incastonata in un pomeriggio che verrà aperto un'altra partitissima che è Napoli-Atalanta. In contemporanea con il Milan, quindi domani alle 18, giocherà la Lazio a Genova con la Sampdoria, e domani sera la Juventus deronaldizzata dal Covid, come sappiamo, che gioca a Crotone. Quindi sarà un super sabato di Serie A con questo derby di Milano, in cui il Milan si presenta a punteggio pieno in classifica, anche perché ha avuto un calendario molto morbido fin qui, e l'Inter con difficoltà di formazione per ben note ragioni, e quindi con una difesa soprattutto ridotta abbastanza in minimi termini contro un Ibrahimovic che invece è guarito, è assatanato, rientra, cioè è una gran voglia. Quindi non vediamo l'ora di parlare un po' di pallone giocato. Grazie, va bene Carlo, appuntamento con voi naturalmente dopo il GR delle 14. Immagino che parlerete anche delle facce, le lacrime, le facce deluse di Valentino Rossi e di Federica Pellegrini positivi a coronavirus. 13:44, facciamo una piccola pausa e torniamo tra poco con Giulia Crivelli. Martina e oltre 500.000 di aziende e professionisti usano la fatturazione elettronica di Aruba perché è semplice, completa e conveniente da una nuova intuitiva app. Fatturazione elettronica di Aruba. Chi l'ha scelta non la lascia più. Vai su aruba.it.